Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Oggi abbiamo ospiti non solo Flavio Suardi, ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ma il nostro amico, voce del basket, Jerry De Rosa. Ciao Jerry. Ciao, buongiorno a tutti. E ovviamente il coach, ciao coach, Dan Peterson. Ciao Carlo, ciao Flavio, ciao Jerry. Ciao coach. Ciao. Senti, partirei dai risultati di ieri sera, no? con Siena che ha smesso di scherzare, mi pare, dopo aver, ricordo quella partita di Teramo in bilico, beh adesso non si scherza più. Siena ha tirato giù la maschera, ha alzato i giri del motore, grande partita con il Barcellona ieri sera, 71-61 nel segno di Domercant che sembrava Del Piero a Madrid mercoledì. Cosa dici, coach? Guarda, innanzitutto bisogna anche dare un po' di merito al coach Simone Pianigiani che ha avuto una grande lettura della partita. Ma Jerry, tu hai fatto la partita, c'eri tu a Siena? No, c'era Flavio. Ah, c'era Flavio, sì. Ok. Devo dire che erano sotto, non è stata una passeggiata e lui ha indovinato la formazione con tre piccoli per velocizzare il quintetto con Finley in campo e quindi anche complimenti a lui, la squadra ovviamente, il pubblico ovviamente, però anche complimenti al coach Pianigiani che si sta rilevando un allenatore veramente con grande qualità. 800 24 00 24 naturalmente per intervenire, messaggi 349 238 6666. Jerry non ha raccontato Siena, ma ieri sera ha raccontato Roma. Esatto, Roma a Lubiana. Becirovic ha festeggiato a casa sua, insomma. Sì, ha festeggiato e i tifosi dell'Olimpia si sono accorti che fischiarlo non è proprio la migliore delle idee, perché Becirovic non so se è stimolato dai fischi o semplicemente perché è molto forte, ha tirato fuori una partita fantastica. Tra l'altro sorprendente che in un posto della grande cultura cestistica come Lubiana arrivino i fischi per lui e per Brejcec, che in fondo sono solo due dei tanti che hanno lasciato l'Olimpia di Lubiana dopo aver cominciato lì. Quindi, però, fischi o non fischi, Becirovic ha fatto una prestazione fantastica e credo che l'unico tarlo che ha messo in testa Repeja è il fatto che una squadra con 12-11, purtroppo visto gli infortuni di Datome in questo periodo, con tanti giocatori, almeno da ieri sembra che Becirovic proprio non possa mai stare fuori in questa sbaglio squadra. Sbaglio è l'ago della bilancia di Roma. Ah, in questo momento sicuramente ieri c'è stata una dimostrazione netta, insomma, è cominciato senza Becirovic, stava giocando male ed era sotto, è entrato lui subito un parziale, riposo all'inizio del terzo quarto, così con l'Olimpia che è tornata sotto, è rientrato lui e Roma è andata via di nuovo. 23 punti in 24 minuti mi pare abbia fatto, quindi insomma. E poi rimbalzi anche contro Teramo, ne ha presi tanti, rimbalzista in sospeso perché la palla finisce a lui, non è che la va a prendere. La palla lo va a cercare. Prima Jerry, coach, fuori onda mi stava dicendo invece su Milano una cosa interessante. Tu l'hai vista Milano, coach? Ho visto un pochettino la partita. Prima di parlare di Milano bisogna dire che questa volta, mentre la settimana scorsa una vinta e tre perse per l'Italia, una roba così, adesso tre vinte e una persa e quasi Milano ha fatto 4 su 4. Quasi 4 su 4, però Jerry prima mi diceva una cosa interessante, no Jerry? Milano ha più 23, però l'impressione era che non ce la potesse fare ugualmente, non so, è una impressione che ho avuto io, ma che hanno avuto altre persone con cui ho parlato. Sembrava davvero una sorta di incantesimo. Milano stava giocando benissimo, non sbagliava mai, di là sbagliavano sempre. Però l'impressione era manca ancora troppo tempo, molto difficile che ce la faccia, anche se la squadra era avanti di 23. È davvero una sensazione molto strana che ho avuto vedendo la partita, però insomma probabilmente anche la consapevolezza di essere senza quattro giocatori così importanti per questa squadra. L'impressione era proprio quella, una sensazione molto strana, ma poi purtroppo si è rivelata reale. La grande depressione, coach. Vedo, è chiaro, Jerry ha piena ragione, loro non hanno gli uomini per resistere l'urto di 40 minuti su 40 nella partita di Eurolega, però si è vista la qualità della squadra, diciamo, quando sono andate a 47-24, se avessero avuto tutti i giocatori presenti, forse potendo razionare un po' meglio il minutaggio avrebbero fatto resistenza fino in fondo, però questa è la realtà di Milano oggi. E poi siccome quando piove normalmente diluvia in campionato, praticamente Milano delle partite che ha perso le ha perse tutte all'ultimo secondo, che avrebbe ne vinci un paio e la tua situazione anche di morale è diversa, soprattutto quando devi fronteggiare tutti questi infortuni. Sì esatto, loro ovviamente come si dice in America stanno questo è ingiusto dire, non sto dicendo, però in America dice quando tu perdi un paio di partite così dopo inventi modi per perdere ancora, cioè ti le cose più assurde vengono fuori, come sono successe a Milano, oppure l'ultima palla scotto, fai un errore di forzatura perché stai mettendo troppo. Comunque Milano adesso è in un momento di grande difficoltà, però a Avellino bisogna anche dire loro grandi vittorie, quindi contro una grande squadra. Poi Jerry mi ha messo la pulce nell'orecchio su un altro argomento. Gallinari, allora Gallinari non ha giocato l'ultima partita, ha detto: ho incontrato negli spogliatoi del Madison Michael Jordan, adesso posso anche smettere. Ovviamente scherzava, noi aspettiamo che giochi, però sarà una lunga attesa, ho l'impressione, perché quella schiera non smette di fare i capricci. Jerry mi faceva notare che tra i lungodegenti, compreso Vitali, che Milano sta aspettando e che ha visto solo a spizzichi e bocconi, insomma, tutti questi ragazzi hanno qualche problema fisico più o meno serio. O ce l'hanno serio. Spesso comunque. O hanno spesso Poeta un altro che ha problemi fisici. Come mai, secondo te, Jerry? Ma non lo so, però, che sono giovani, temo, non lo so, è proprio un'impressione. Però ho notato negli ultimi anni le nostre migliori speranze hanno molto spesso problemi fisici. Li ha avuti, per esempio, Belinelli negli anni scorsi. Lo stesso Bargnani. Lo stesso Bargnani, che ha avuto la pubalgia a 19 anni. Quindi non lo so bene, sinceramente non ho la cognizione, la conoscenza medica per poter... Però noto che insomma i prodotti del nostro basket più giovani, proprio all'inizio della loro carriera, hanno questo tipo di problema. Non vorrei che fosse qualcosa che avviene a livello fisico con gli anni delle giovanili, questo non lo so, però è indubbio che qualcosa succede, perché ormai è un fenomeno comune. Cos, che ne pensi? Io ho un'opinione mia su questo. Innanzitutto Jerry ha perfettamente ragione, troppi giocatori, soprattutto questi giovani che sono in fase formativa quando cominciano queste cose qua, ma anche secondo me è cambiato radicalmente in questi anni il sistema di preparazione. Jerry si ricorda benissimo, quando allenavo io si faceva pesi in sala pesi, il minimo indispensabile, voglio dire, si faceva perché serviva, tono muscolare, guarire da un infortunio, quelle cose. Adesso c'è, secondo me, forse troppo importante, anche in America così, dicono che in America Gallinari ha fatto preparazione con il preparatore di Knickerbocker, esagerato, partita la schiena, cioè io vorrei vedere un po' più un ritorno ai tempi quando lavorava sulla flessibilità con stretching, sulla resistenza con la corsa lunga, con la velocità con gli scatti brevi, e forse un po' meno su pesi per la potenza. C'è la potenza importante, ma anche si può fare questa con esercizi a terra, anziché fare, non so, la panca, la schiena sulla panca, alzare il peso, può fare flessioni sulle braccia, voglio dire, le addominali, ci sono altre cose. Cioè, io vorrei vedere un piccolo ritorno al passato in questo qui. Forse sbaglio, forse non ho ragione, però è una sensazione mia. Sì, Carlo, la sensazione è che si cominci a fare pesi troppo presto, secondo me, quando la muscolarmente il fisico non è ancora pronto, quando i ragazzi hanno 14-15 anni cominciano già a utilizzare i pesi, e magari questo produce qualche scompenso che si rischia di pagare negli anni successivi. Ovviamente questa è un'impressione, però ormai è evidente, insomma, dai dati che qualcosa non va. Cioè, un denominatore comune c'è, no? Perché tutti questi ragazzi, vuoi anche lo stress fisico cui vengono sottoposti, problemi di crescita, Gallinari li ha avuti, ti ricordi? Sì, mi ricordate, no? A Pavia ha perso mezza stagione proprio per problemi legati alla crescita. È chiaro che l'impatto fisico è enorme per questi ragazzi che, come nel caso di Gallinari, sono ancora erano ragazzini, 16 anni, 17 anni, che giocavano con i grandi. Ma hai detto tu la cosa chiave: in una fase di crescita, in una fase di sviluppo, troppi pesi non possono andare bene, e sempre riscuote sulla schiena. Questo, tutti questi hanno problemi. Bargnani ha avuto problemi di schiena, Gallinari problemi di schiena. Assolutamente troppo importanza data a questo aspetto della cosa. Sono tutti i preparatori ex pesisti, eccetera. Io avevo Claudio Tracchello a Milano, ex quattrocentista, era molto più sullo scatto, sulle resistenze, polmone, gambe, quelle cose lì. Cioè, io sono molto molto scettico su questa fase qua di fare troppi pesi. No, volevo parlare adesso invece un attimo di Berinelli, perché c'è qualcosa che non mi torna, Flavio. Sì, c'è una... Abbiamo sentito una settimana fa dire: ma San Francisco non mi fanno giocare, mi faranno giocare. Comunque la città è bella, sto benissimo. Il coach è un simpaticone, adesso? Adesso dice, qui ho di fronte un ritaglio del Corriere dello Sport di oggi, Berinelli dice: sono frustrato, non sono felice, in 4-5 partite ho giocato qualche minuto, il mio secondo anno devo giocare, ma non so, vedremo. Questa stagione con il coach non abbiamo parlato di nulla, io sono contento quando squadra vince, ma questo momento è difficile, è duro perché non mi sento parte del gruppo, però continuerò a lavorare. Cambiato idea rispetto a una settimana fa, quando pare di sì, quando ha fatto diventare Obama Osama. Sì, esatto. Lo ricordi. Coach. E quindi Don Nelson è passato da simpatico a muto, ecco. Da simpatico a muto. Don Nelson è un personaggio estremamente difficile. Adesso che lui è anche, io non dovrei parlare perché ho più anni di lui, ma adesso che lui ha 68 anni è ancora più orso in certe cose, e certamente Bellinelli deve andare via da là. Ma poi la cosa incredibile, io so per un fatto, e lo sa anche Jerry De Rosa e tutti quelli di Sky e tutti i nostri di Sport Italia, sappiamo benissimo, ci sono tante squadre NBA, io ne so di 4-5 che vorrebbero aver Bellinelli, che hanno chiesto di Bellinelli. La mia domande sono queste: se l'hai scelto prima con numero 18 nel 07, perché non lo fai giocare? Due, se hai appena rinnovato il contratto, che l'ho fatto recentemente, penso un altro anno, che ne so, perché non fai giocare? Cioè, se lo fai giocare 45 minuti in un amichevole pre-stagione in cui lui fa 22 punti, perché non fai giocare? Cioè, non mi, come avete detto voi, non tornano i conti, qualcosa non va, e Nelson è un ottuso che si ritiene un genio, invece si è rilevato che non è molto genio. Ah, però il coso che mi ha detto touché, Jerry, condividi? Beh sì, sicuramente è così. Io credo che forse dovremmo aspettare ancora un mese, insomma, vediamo un po' cosa succede ancora, perché ha ragione il coach, ti fanno giocare 45 minuti e tu rispondi bene e poi improvvisamente non giochi più. Fra l'altro è successo l'anno scorso, però il primo anno forse poteva essere già un po' più comprensibile. Io credo che poi ci sia un altro aspetto che va considerato. L'NBA è un mondo difficile per chi viene da fuori, se non giochi, anche perché cambia totalmente il concetto di squadra. Sei davvero da solo in mezzo agli altri. Se in più non giochi, puoi anche dire che la squadra vince, sei contento, come si usa da noi nel calcio soprattutto, a disposizione del mister e tutto, sì, quanto. Sì, sì. Però la settimana è lunga e viaggi da solo, vivi completamente da solo, sei lontano da casa, è evidente che non ti senti a posto. E a maggior ragione se non ti fanno giocare e se non senti addosso la fiducia del tuo allenatore. Però insomma la stagione è molto lunga, io credo che è vero che passano gli anni eccetera, però Don Nelson non può essere così pazzo da tenere Bellinelli e non farlo mai giocare dopo aver investito così tanto anche della sua immagine e della sua credibilità nei confronti dei tifosi, certo, di Golden State. Cos, per chiudere, i 55 di Anthony Parker invece come li leggiamo? Trascina da solo San Antonio fuori dalla crisi. Anche una cosa, questo è Tony Parker comunque. Sì, certo, Tony Parker. Tony. Ma lui, ogni volta che vedo lui mi ricordo, e forse c'era anche Terry De Rosa con noi nel 01 a Istanbul, a vedere lui negli europei, era piccolino, magrolino, e allora l'ho visto, era lì proprio con il nostro Flavio Tranquillo con Eurosky, e ho detto: Flavio, chi è quel piccolino lì? Perché pensava che fosse, non so, il figlio dell'allenatore che fa il riscaldamento con la squadra, era talmente piccolo e magrolino. E Flavio mi dice: quello lì è Tony Parker. Tony Parker, che barzelletta, figurati quelli idioti di San Antonio che l'hanno scelto. Ma ho riso in faccia a tutti, ok? Poi non parte il quintetto. Adesso vedi che ho ragione io, che neanche il coach della Francia lo fa partire. Poi dopo l'ha fatto giocare, l'ha fatto strage e tutto, e ha detto: ups, adesso vuol dire che San Antonio ha ragione. Io sono un cretino, l'allenatore di Francia deve stare zitto e tutto quello lì. Cioè, l'abbiamo visto, uno scatto, io non so, dei giocatori rapidi, non so cosa ne pensa Jerry, lui, Iverson e pochi altri, non so, che hanno questo primo passo, questo cambio di direzione come lui, e poi sa tirare, sa trattare la palla, palleggiare, grande coordinazione di corpo e non ha paura. E sì, coach, poi ce lo ricordiamo invece nel 2003 a Stoccolma con Bulleri che gli andava via ovunque, quella famosa partita che ci ha regalato la qualificazione olimpica e quindi anche un po' l'argento. L'anno scorso poi invece in Spagna Parker è tornato Parker contro Bulleri e la partita Francia-Italia l'ha vinta di fatto lui. Grazie coach. Grazie ragazzi, ciao Jerry. Ciao amici, coach, a presto. Ciao a tutti, ciao ciao. Ci sentiamo venerdì prossimo con Coach Peterson. Palla spicchi. Eccoci tornati, aspettiamo gli ascoltatori anche, 800 24 00 24, intanto messaggi 349 238 6666. Ce n'è anche per Milano da un "spero che nessuno contesti Bucchi, l'ho conosciuto a Rimini, mi ha colpito il suo modo di insegnare basket in modo chiaro per tutti". Certo, splendida persona Bucchi, bravissimo allenatore. Ma c'è anche un Bruno che scrive: "coach, ti prego, Cos Peterson torna sulla panchina di Milano. Beh, oh, mi sembra tardi. Buchi ha tutte le attenuanti del mondo, dai, Buchi, in questo momento. Se oltre a non avere non avere Bulle, non avere Vitali, devi andare a giocare in Eurolega e non hai neanche Rocca e hai Sangaré con 38 di febbre, non puoi che fare 40 minuti di zona, sperare di vincere e poi perdere all'ultimo secondo. Non credo che sia... Ma è una situazione curiosa quella di Milano, perché è la fotocopia di quella dell'anno scorso. Più o meno sì, come risultato scorso era una vittoria, la prima, come quest'anno, esatto, e poi 5 sconfitte in campionato. Non c'era questo problema di infortuni, i problemi l'anno scorso erano altri. Quest'anno sinceramente non si può valutare la squadra adesso. Fra l'altro, l'unica partita che Milano ha vinto c'era Vitali in campo. Che ha fatto il canestro decisivo. Che non ha giocato bene, reduce da un periodo di infortunio, però... io vorrei vedere tutti i finali Milano ha perso col playmaker titolare in campo, cosa succede, eccetera. E poi l'unica cosa che mi ha un po' deluso di Milano è il fatto che i presunti leader di questa squadra nel momento di difficoltà sinceramente le responsabilità non se ne sono prese. Io a Belgrado Hawkins avrei voluto vederlo provare a mangiarsi la partita, quanto poi magari sbagliare 20 tiri, però prenderseli, perché era un momento di difficoltà della squadra. O Joby Thomas non fare il terzo e il quarto fallo in maniera così banale, molto ingenua, insomma. Però Jerry, leader non ci si inventi poi più di tanto, e Hawkins fino adesso non è mai stato, No, no, non è, però dopo la partita di Pesaro, dopo la partita di Pesaro sembrava di sì, però è così Hawkins, è immarcabile una partita e si marca da solo in quella dopo, è un giocatore così. E l'inutile Hall come dove lo mettiamo? Hall, classico americano che non serve a niente, mi pare. Sì, che per il momento sa fare un po' di tutto, però senza incidere, passa abbastanza inosservato sulla partita. Devo dire che l'impegno non manca, si sbatte tantissimo, però sembra veramente al di fuori del contesto. Sinceramente anche lui quando gioca così dovrebbe essere un po' più incisivo, ma per il momento non riesce proprio come tipo di gioco, non sembra il giocatore in grado di aggredire la partita. A proposito di Pesaro, tu hai commentato per Sky Pesaro Virtus, prima sconfitta della Virtus, e che sconfitta! Che sconfitta! Tra l'altro, davvero. Virtus che ha risarcito i tifosi che sono andati in trasferta, anche i giocatori hanno contribuito a risarcire i tifosi per lo spettacolo offerto. Strano, Molto strano, anche perché sembrava invece che uno dei segreti di questa Virtus è che avesse trovato nelle prime partite subito il modo di mettere insieme questa banda di grandi giocatori che ha messo insieme la squadra. È molto forte, secondo me. È fortissima. E dalle prime partite sembrava che tutti avessero trovato più nel loro ruolo, tutti fossero contenti. A Pesaro è sembrato tutto il contrario, c'è stato anche qualche piccolo litigio in campo, qualche piccolo problema. È ovvio che quando vinci vai d'accordo con chiunque, e quando perdi anche di tanto, anche solo la frustrazione ti porta a dei gesti che magari non fatti in settimana. Poi tutto è rientrato, Arnold e Boykins sono chiariti, che erano stati insomma protagonisti di una scena non particolarmente bella. Il presidente Sabatini, anzi proprietario Sabatini, se n'è andato a 5 minuti dalla fine, questo è un bruttissimo segno credo per la squadra, e adesso sono attesi subito a un pronto riscatto, perché insomma in casa Virtus si conta molto in questa stagione su questa squadra. Se Sabatini tiene i nervi a posto, perché sai com'è, no? L'anno scorso ogni sconfitta erano teste che cadevano, americani fuori rosa, insomma sconfitta brutta, pesante, secca. Però, insomma, da lì a dire che è una Virtus in crisi, aspettiamo le cose. Ah, no, sì, tra l'altro domenica sera su Sky ci sarà Virtus Avellino, col ritorno di Bestri, Markowski a Bologna, insomma, e sarà subito già una discreta prova del 9. Devo dire che Sabatini in questo però è coerente, cioè, insomma, con gli americani se la prende dal punto di vista comportamentale. È difficile che intervenga su questioni tecniche, a Pesaro sono state questioni esclusivamente tecniche, magari di motivazione, in questo senso ha dato anche una spinta ai giocatori per dare una mano a risarcire i tifosi della trasferta. Su piano comportamentale però devi anche saperli scegliere, no? Mille volte abbiamo detto, una cosa è scegliere buoni giocatori a pieno il mondo, persone che siano buoni giocatori e persone a modo è un'altra storia, sono quelli che poi ti fanno la differenza, ma abbiamo tanti esempi in Italia, insomma. Oreste da Caserta, primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Volevo chiedere una considerazione su in totale sul roster di Caserta, però soprattutto sui due nuovi americani, se è il caso o meno di insistere su loro oppure di lasciar perdere e trovare qualcosa di più esperienza. Si erano fatti i nomi di Booker e di Edney per il taglio dei due. Sì. Cosa ne pensi, Jerry? Ma io penso che quando scommetti sui rookie, scommetti appunto, e quindi insomma punti sul talento, ma devi avere anche la pazienza di aspettare che questi giocatori maturino un minimo di esperienza. Secondo me in particolare Foster può diventare un'arma molto importante per Caserta quest'anno, bisogna avere pazienza. Roma la sta avendo per esempio con Jennings, che è arrivato qui in Italia presentato insomma come la futura stella eccetera, però questo è un basket completamente diverso rispetto a quello a cui sono sempre stati abituati questi giocatori. Il college, al college si gioca un altro sport, anche nell'NBA si gioca un altro sport rispetto all'Europa. L'Europa ti trovi di fronte giocatori califfi che magari ti danno la gomitatina, ti la spinta, non ti fanno entrare in partita. Insomma, questi giocatori hanno bisogno di un po' di tempo per capire questo tipo di cose. Foster, secondo me, ha le potenzialità per fare un grande campionato. L'altro, però, forse è penalizzato perché gioca in un ruolo chiave. Cioè, io parlo di Butler, ovviamente. Un giocatore che deve darti ritmi così sottotono probabilmente ha più probabilità di influire sul gioco negativo della squadra. Sì, infatti io credo che i pensieri che stanno facendo la Caserta siano soprattutto riferiti a Butler. Per me il discorso è simile, anche se almeno come prima impressione mia a livello di potenzialità non c'è paragone fra Foster e Butler, forse anche per questo motivo che a Caserta stanno interrogando sul suo effettivo rendimento. Fra l'altro hanno un ruolo ben coperto con Di Bella, quindi possono permettersi anche di aspettare un momento. Fra l'altro quest'anno poi ci sono anche le finestre di mercato, quindi comunque credo che il tempo per ragionare ci sia ancora e per intervenire ci sia ancora. Però in generale, siccome quest'anno ci sono tanti rookie, tanti giocatori che hanno l'università, io credo che le squadre che si affidano a questi giocatori e quindi di conseguenza i tifosi debbano avere ancora un po' di pazienza per giudicare. Ma Caserta è appena tornata, dall'inferno, quindi la pazienza è finita. È finita, 14 anni laggiù, adesso tornano, ricominciano. Però con questo Guillermo Diaz si può aspettare magari che Foster salga un po' di rendimento. Ti piace Diaz? Ma da matti, devo dire che è un giocatore fenomenale, credo, anche perché è completo, cioè poi risaltano i punti che fa, i salti che fa, però fa un po' di tutto, è un leader vero. Dunque adesso dobbiamo fermarci per la borsa, ma subito dopo torniamo, aspettiamo anche altri ascoltatori, continueremo a parlare di campionato anche buttando un occhio sul testa coda che Jerry De Rosa commenterà per Sky nel weekend e sulla Caracas Connection. Poi vi diciamo che cos'è se non l'avete ancora capito. Palla spicchi. È venuto il momento di rivelarvi la Caracas Connection. Indovinello, nessuno ha risposto, mi sembra via sms, ma vale ancora 349-238-6666, messaggi sms 800-24-0024. Che cos'è la Caracas Connection? No, non è niente se non i due giocatori ai quali si sta un po' aggrappando Udine, Torres e Romero, per uscire da questa brutta situazione. Fra l'altro Romero un pochettino ci ha provato, ma anche Torres devo dire, stanno giocando molto bene, ma sono gli unici. E Romero domenica scorsa con un mezzo miracolo stava pareggiando la partita con Cantù, domani lo mostreremo nelle prepartite. È stato un fischio di La Monica su un fallo subito da Romero, 2 secondi alla fine, meno 3 Udine, Romero butta la palla per aria all'indietro, canestro, a Udine voleva il canestro valido e il tiro libero. Non è stata questa l'idea di La Monica, però è stato un numero incredibile. È anche successo qualcosa poi nello spogliatoio, non hanno gradito molto. No, non hanno Udine. Gradito molto, e devo dire domani lo mostreremo e ognuno potrà giudicare, ma era obiettivamente una scelta molto difficile secondo me, perché sicuramente Romero aveva le spalle al canestro, quindi non stava tirando, però sente il fischio e butta la palla alle sue spalle, la palla entra, quindi a tutti gli effetti è un tiro quello. Canestro buono e tiro libero, tutta la vita, non si discute. Infatti. Questo testa coda che racconterà domani è una bella partita, perché Roma è in forma, arriva direttamente da Lubiana, ha giocato ieri sera, quindi si trasferisce direttamente a Udine, però la Snyder ha bisogno di vincere e ci è andata abbastanza vicina sia con Cantù, un po' meno con la Virtus a casa della Virtus, però ha giocato bene per 35 minuti, quindi più o meno la squadra c'è, però insomma dopo 4 sconfitte arriva la squadra più in forma del campionato insieme a Siena, insomma una sfida da vedere, come tutti i testa coda come si dice, insomma ci sarà una bella battaglia in campo. Di Giulio Maria risolta la questione più o meno? Sì, no, poi da capitano sa benissimo che cosa bisogna fare per far vincere la squadra, bisogna andare avanti e pensare al bene della squadra. Sicuramente qualche problema di rapporto c'è, ma anche quello andrà risolto proprio per il bene della squadra, e già la prestazione contro Cantù di domenica scorsa insomma fa pensare a questo. Bonicioli candidato alla panchina di Milano in caso di mancato cambio di rotta, vi risulta? Ma al momento no, io sono convinto io, che... Io ho sentito, cioè un uccellino mi ha detto che Bonicioli sta per tornare in panchina in Serie A. Ma Bonicioli io credo che sia la prima scelta per chiunque, la prima panchina che salta, perché ha fatto talmente bene l'anno scorso, è talmente un bravo allenatore che è già è assurdo che non stia allenando ancora adesso, anche se lui sta felicemente dirigendo, coordinando il lavoro a Trieste in B2 e mi sembra che siamo partiti senza sconfitte quest'anno, però sì, guarda caso 2500 spettatori, apro la parentesi, la chiudo, per la B2 sì, sì. B dilettanti, chiamiamola come Trieste, è come Trieste, infatti è una piazza che il nostro basket dovrebbe noi siamo recuperare. La pallacanestro italiana, questa è storia, è nata lì, sì, sì, e infatti. Poi da lì si è ramificata, infatti. Eccetera, eccetera. Milano è nata da Trieste. Esatto. Domandate al principe Rubini o a Sandro Gamba. No, mi incuriosiva la connection da quella di Caracas, di Attilio Caia a Udine. Vorrei invece un tuo parere. La settimana scorsa ne abbiamo parlato a lungo sulla connection Fortitudo, perché mi sembra una discreta gabbia di matti. Sì, sta succedendo davvero di tutti i colori. Diciamo che loro hanno provato, a proposito di scommesse, parlavamo prima, scommesse sul talento. Poi aveva gestito anche fuori dal campo questo talento, ne sono successe un po' di tutti i colori. Il discorso forte. Ma lo sapevano già da prima, eh. Cioè, sì, forte però... non è che l'hanno preso quest'estate, l'hanno preso l'anno scorso. Sai benissimo che è un giocatore che ti dà punti, ti dà guai. No, sì, no. Anche se a dire la verità l'anno scorso guai ne ha dati pochi, però sai che te li può dare, prima o poi li può dare, infatti lo conosci. Sì, sì, infatti sono scelte, scommesse, a volte le perdi, e questa è stata la decisione, sicuramente affiancare poi un altro giocatore difficile da gestire come Woods a forte ha complicato ulteriormente le cose, perché poi oltre che fuori dal campo sono giocatori difficili da copiare anche in campo visto il tipo di talento che hanno. A proposito di scommesse perse, Sean Kemp a Montegranaro, scommessa persa, però poi squadra rivoltata come un calzino, 3 vinte e una persa, quindi scommessa persa da una parte, Montegranaro che però alla faccia di chi pensava che le provinciali quest'anno avrebbero sofferto e non poco, per adesso è ancora lì. Ah sì, è ancora lì nella posizione in cui era l'anno scorso, avendo cambiato totalmente la squadra, avendo perso i suoi principali leader, però è rimasto un po' il capogruppo, cioè Kiwan Gerris, che domenica scorsa a Milano è stato superlativo. Anche lì hanno scommesso su un rookie come Taylor, che qualcosa sa fare e deve crescere a livello di continuità, e sono riusciti con grande competenza a rimediare in corsa agli errori fatti quest'estate. Si sono fatti un po' abbagliare, no, dalla luce di Sean Kemp. Io credo che Alex Finelli al primo allenamento si è accorto che questo non poteva giocare, perché ne ha fatto uno di allenamento, ha fatto un allenamento, un amichevole, sicuro? Amichevole, sì. Allora la maglietta sudata, sicuro? Sì, sì, ha fatto anche un amichevole, se non mi ricordo male, contro Ferrara, sì, scheggiando più volte scheggiando... il Califerro, sì, provando a tirare. Però abbiamo fatto 4 punti con 2 su sì. 10, una cosa del genere. Sì, però siete molto bravi a rimediare in corsa, è difficilissimo. Però, tra l'altro, ritornando su una decisione che era quella di non confermare Minard, che era sbagliata anche quella, se vogliamo. Sì, per me Minard è un giocatore, andrebbe bene anche per squadre che puntano molto più in alto. Ti ricordi che prima che parlavamo di uomini e giocatori? Ricky Maynard è un uomo e un giocatore. Ah, sicuro, io non ho mai visto professionista in qualsiasi professionista. Piazza è stato, a Biella, Reggio Emilia, a Montegranaro, un americano vivere così intensamente la partita, quasi forse non dico un italiano, ma un giocatore del posto. Francesco Siena, buongiorno. Buongiorno. Senta, complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo farle una domanda e una preghiera a livello personale. Allora, partiamo dalla preghiera. No, partiamo alla domanda. Allora, la domanda è: siccome io vedo la squadra della mia città talmente superiore a tutte, sia in Italia che in Europa, chiedevo a lei se quest'anno era possibile fare l'accoppiata campionato campioni, ecco, questa era la domanda. E la preghiera è: oltre ad essere tifoso, sono anche tifoso accistiamente dell'Inter, mi ero illuso che quest'anno, quando lei faceva le azioni su Ronaldinho, che era un giocatore bollito, avesse ragione. La preghiera è: per favore, continui a parlare di basket e lasci stare. grazie Francesco, soprattutto la preghiera che mi è piaciuta moltissimo. Io continuo a pensarla come sopra. Io continuo a pensare che sia, non sia superiore a tutti in Europa, perché in Italia sì, ma in non Europa... Ronaldinho. No. Non bisogno di Ronaldinho. Ah, di Ronaldinho. Beh, io volevo cambiare argomento, perché poi la preghiera diventa un po'... Continuo a voleva pensarla... farti un favore, Carlo. Esatto. No, ma continuo a pensarla come sopra. Ronaldinho ieri sera, beh, gran gol, gran gol all'ultimo minuto, tutti contenti. Però, insomma, io leggo anche delle pagelle che mi lasciano un po' interdetto, insomma, che abbia buona stampa non c'è dubbio, ripeto, che sia divertente da vedere giocare, che insomma, da giocatore da prestito, va tutto bene, però rimango dell'idea che quello buono è Kakà. Devo prendere una Kakà. Okay. Non è Ronaldinho. No. Comunque, ne parliamo domani nel weekend, con grande piacere. Francesco, torna a trovarci, Siena, accoppiata... Non superiore a tutti in Europa, secondo me, perché no. CSKA è ancora di un'altra categoria. No, anche perché in particolare quest'anno, secondo me, ci sono almeno 8 squadre che possono vincere, la concorrenza è aumentata. Anche se il Panathinaikos è un po' in ribasso, ma crescerà. Però c'è l'Olympiakos, che fra l'altro ieri sera ha perso, e quindi è dimostrazione di equilibrio, non certo di un livello più basso. Siena, però, è una squadra che ha perso Thornton e ha deciso di cambiarlo con Domerkant, che può diventare un Thornton più giovane, più atletico, forse anche con più soluzioni in attacco. Ecco, se Domerkant diventa questo, allora Siena può davvero sperare nell'accoppiata. Se poi Finley è quello di ieri, insomma, ha rischiato un pochettino, perché è andato a toccare dei meccanismi che funzionavano alla perfezione. Quello di McIntyre con Finley, stai parlando. Però ovviamente Finley è chiaramente più forte di Ilievski, però forse in partenza un giocatore alla Ilievski poteva svolgere meglio il cambio di McIntyre. Se vince anche questa scommessa di Morris Finley, ha aumentato clamorosamente il talento a propria disposizione, e Finley ti può far vincere le partite, come può fare McIntyre. Ma mi fa molto ridere comunque chi dice si può vincere, cioè all'Eurolega tu devi arrivare alle Final Four, e Siena secondo me ci arriva. Poi da lì vincere o perderla, ragazzi, Jerry vi ha raccontato l'anno scorso a maggio una partita già vinta. La partita in ghiaccio era Milan-Liverpool, o giù di lì, più no? o meno siamo... Era più o meno Milan-Liverpool con il Maccabi, Siena, partita in mano, prospettiva di una finale con il CSKA, che aveva paura di Siena molto più che del Maccabi. Si spegne la luce, un tempo via. Quindi, e questa è la pallacanestro, quindi hai ragione, proprio l'obiettivo è arrivarci, da fare al foro, poi lì dipende da talmente tanti fattori che non sai mai come va a finire. Fra l'altro, se c'è una squadra come il CSKA in una Final Four con giocatori così bravi a diventare fortissimi nelle occasioni che contano, parlo di Langdon, parlo di Holden, diventa molto difficile poi vincere la Coppa. Beh, è chiaro che però Siena sta lavorando proprio in questo senso, ma Siena sono i primi a sapere che l'obiettivo è arrivare alle Final Four. Certo, lì quello è l'obiettivo vada realistico. Come vada. Ma quello è l'obiettivo realistico, il resto sono chiacchiere. Palla spicchi. Ecco che torniamo, abbiamo detto Dino Meneghin, abbiamo detto questa intervista, abbiamo detto di un'agenzia che vi ho trovato, non è stato difficile, anche perché è stata battuta alle 13:53, molto fresca. Nessuno si deve scandalizzare se faccio il tifo per Dino Meneghin, sono molto fiducioso perché lo vedo determinato, sta lavorando bene e ha buona volontà. Firmato il presidente del CONI Gianni Petrucci, mi auguro che vada avanti, ha aggiunto. Ha le idee, ha la volontà per fare bene, le leghe devono comprendere che bisogna trovare un punto di incontro, lo stanno già facendo. Si allunga il naso di Petrucci? A sentire Meneghin sì, infatti lo sentiremo. Allora sentiamolo, Meneghin, intervistato da Flavio Suardi, problema è l'accordo con le leghe, che non lo vedono benissimo come prossimo presidente federale, con la Lega di Serie A, sentiamo. Partirei dal fatto che, al di là delle novità, delle cose da fare, dell'importanza, è stata proprio una fase di studio, perché sia io che il vicecommissario D'Alessio abbiamo avuto una serie di argomenti e di cose da risolvere molto importanti, a volte antipatiche da trattare, però necessarie, e quindi è proprio una cosa, fino adesso è stata prettamente una cosa burocratica e quindi non decisionale. Non abbiamo deciso di fare questo o quest'altro proprio perché c'era un lavoro enorme sotto questo punto di vista, ecco. Quali saranno dunque i tuoi prossimi impegni in calendario? Cioè, da dove partirai per cominciare invece la fase decisionale che fino adesso non hai potuto affrontare viste le lungaggini burocratiche a cui sei stato sottoposto? Ma sai, in questo momento io non è che possa decidere tantissimo, cioè l'unica cosa che potrei fare è devo consultarmi con gli avvocati eventualmente di cambiare lo statuto, Però al di là di questo, qualsiasi decisione io prenda adesso poi può essere stravolta dal nuovo presidente che subentra, quindi qualsiasi cosa io possa fare adesso o voglia fare sarebbe un lavoro inutile, per cui in questo momento sto cercando di capire cosa sia meglio fare per il movimento insieme alle leghe, insieme ai comitati regionali, e cercare di proporre delle soluzioni che possano migliorare dove è possibile il nostro movimento. Mi pare di capire dalle tue parole che non ci sia grossa intenzione da parte tua di candidarti alla presidenza federale. Dico, da una parte sono sicuramente stimolato da farlo proprio per la mia volontà, il mio piacere anche di poter dare una mano al nostro movimento, questo non ci piove. Dall'altra non vorrei essere il presidente che viene messo lì, nel senso di essere un quadro appeso alla parete dove poi tutto quello che viene proposto viene assolutamente dimenticato e bocciato o quant'altro. Ecco, per cui se da parte di tutti c'è la volontà c'è la volontà di fare qualche cosa, di cambiare, ben volentieri, ma se deve essere un quadriennio, per dire, di lotte intestine, di contrapposizioni, eccetera, eccetera, dico no, prendetevene un altro che sicuramente è più bravo di me nel gestire queste cose. Proviamo ad entrare un po' nel concreto. Vado lontano dalla realtà se dico che un po' di ostracismo da parte della Lega sulle modifiche che potrebbero essere strutturali e utili alla pallacanestro italiana, tipo quella sulla riduzione degli extracomunitari e sull'impiego dei giocatori italiani, ti abbia in qualche modo spinto o ti stia in qualche modo spingendo a rinunciare alla candidatura, che parta proprio da qui questa non volontà di cambiare di cui tu facevi cenno prima? Potrebbe essere, anche perché vuol dire subito no, penso che magari faccia parte anche del gioco delle parti. Sicuramente mi piacerebbe capire fin dove è aperta la trattativa, nel senso che da indagini, sondaggi, parte, vuol dire, il pubblico e quant'altro, e soprattutto del desiderio di avere una nazionale più forte, c'è la necessità secondo me di avere più spazio per i giocatori italiani, pur salvaguardando quelli che sono gli interessi giustissimi, economici e di voglia di vincere delle società. Però bisogna trovare una soluzione, perché altrimenti, cioè, se si parte subito, qui non si tocca niente, eccetera, eccetera, allora diventa difficile da dare. Charlie Recalcati dice giustamente che un buon accordo è quando tutte le parti sono un po' scontente, e quindi vuol dire che qualcuno rinuncia a qualche cosa a favore dell'altro. Se non c'è questa volontà, penso che sia molto difficile discutere di qualsiasi cosa. Si va a discutere sempre comunque di vivai, di produzione di giocatori, giustissimo, eccetera, eccetera, e soprattutto di trovare lo spazio giusto per dare la possibilità ai nostri giocatori di fare quell'esperienza necessaria per farli diventare più forti. Tutti si riempiono la bocca con vivai, produzione di giocatori, la nazionale, gli italiani. Però poi alla fine, quando bisogna stringere e l'associazione giocatori magari non vuole rinunciare a qualcosa e la Lega mette dei paletti, insomma, mi pare di capire che sia questo un po' quello che manca alla pallacanestro italiana in questo momento, cioè la voglia di andare nel concreto. Sì, diciamo che per quanto riguarda il settore giovanile, eccetera, io penso che sia, non dico facile, ma si possa trovare una soluzione aumentando il lavoro un po' di tutti. Penso che lì la cosa sia, tra virgolette, un po' più semplice. Ecco, trovo un grosso ostacolo al vertice, dove c'è una grossa produzione di giocatori sotto, diciamo, però al vertice della strozzatura c'è l'imbuto dove passano pochissimi italiani che possono fare quel salto di qualità, ecco, per esperienza, eccetera. Quindi il grosso nodo, nodo della questione è lì, sull'uso e l'utilizzo di giocatori stranieri e di giocatori italiani, e sul costo dei giocatori, ecco, sugli stipendi e quant'altro. Penso che poi alla fine della fiera le società abbiano, dovendo far quadrare i bilanci, devono stare attenti soprattutto a queste cose. Quindi devono stare attenti a come spendono per non arrivare a soluzioni del tipo di Capo d'Orlando e Napoli. E bisogna anche arrivare al fatto che un giocatore italiano sia in qualche modo a prezzo di mercato, evidentemente, per stare nel tuo discorso. Cioè un giocatore italiano non può costare il doppio di un comunitario. E proprio anche per quello che vuol dire le società vanno a cercare i giocatori all'estero. Al di là del fatto tecnico, è anche una questione di costi, quindi bisogna cercare una soluzione per cui ci sia parità di qualità, ci sia il giusto prezzo. Ecco. C'è possibilità di che tu cambi idea e che ti possa ricandidare alla presidenza della federazione, allo stato attuale delle cose? Ma sai, gli incontri continuano, quindi anche se non si va sui giornali, quindi penso che vediamo un po' cosa succede nei prossimi giorni. L'unica cosa è che non voglio fare la figura di del tentenne, cioè nel senso che un giorno sì, un giorno no. Cioè io ho sempre detto che mi piacerebbe candidarmi a determinate condizioni, e quindi la valutazione di questa cosa che riguarda la mia vita per 4 anni sicuramente non va presa nell'arco di una notte, è una cosa che va molto ponderata. Questo era Dino Meneghin, abbiamo parlato di Caracas Connection, questa è la Roma Connection. Jerry, una tua idea. Ma la mia idea è che Dino si è preso un compito molto difficile, infatti un po' di amarezza traspariva da queste parole. Ci vorrebbe un Nobel per la pace per mettere d'accordo tutti, è impossibile. Dino ha ragione, senza un passo avanti da parte di tutte le parti non si va veramente da nessuna parte. E allora lì, ne parlavamo già in un'altra puntata, allora lì ci vuole qualcuno che prenda una decisione, perché esatto, stiamo andando avanti da anni, esatto, nell'attesa di una trattativa. Secondo me ci sono due i dati: tenere conto del pubblico, il pubblico vuole più italiani in campo, ma gli italiani devono rendersi conto che questa non può essere un'arma di ricatto nei confronti della società, non possono costare di più, doppio gli italiani con minore qualità o con pari qualità. Il nodo è tutto lì. Se la scelta è una regola che porta ad avere un tot di italiani fissi in campo comporta il fatto che gli italiani costino di più, non è più una battaglia per il posto di lavoro, ma diventa un'arma di ricatto nei confronti della società. Cioè, questo diventa... è il passo avanti che deve fare l'associazione giocatori. Sai, diventa il cartello, no? Il cartello, sì, degli italiani che fa il prezzo e la società. Perché, scusami, poi faccio molto la svelta. È vero che il pubblico vuole i giocatori italiani in campo, però se andiamo a vedere in Spagna, dove hanno settimana scorsa stabilito il record di presenze medie, più di 8.000 spettatori a partita di media nella giornata di campionato, vai a vedere le squadre di vertice, quanti spagnoli ci sono nel Tau, nel Barcellona, nel Real Madrid. Non più di quelli che ci sono in Italia, nelle squadre italiane. Quindi comunque un modo per attirare il pubblico, se si lavora bene come fanno in Spagna, c'è. Sì, anche se io rimango della mia idea che non sposa quella di Bonicioli, cioè non è vero che la gente vuole solo vincere, non gliene frega niente di chi va in campo, del passaporto, eccetera, perché gli italiani li vuole, il pubblico, sì, sì, italiano lo vuole identificarsi, vuole vedere certe facce con certe magliette. Poi... questo è poco ma sicuro, perché poi alla fine vince una sola e noi dobbiamo lavorare per portare il pubblico su tutti i campi. Vediamo qui, Flavio, volete dire qualcosa? Sì, no, il francobollo è questo, bisogna anche trovare il modo di accorciare i tempi per prendere le decisioni. Meneghin era molto abbacchiato anche da questo, una decisione va vagliata da tutte le componenti che la portano al consiglio, cioè è difficilissimo decidere qualcosa in questo momento nel mondo del basket. Grazie Jerry, torna a trovarci. Grazie a voi, quando volete. Stretto giro di posta, grazie Flavio. Ci vediamo venerdì. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia, noi ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 17. Un saluto a tutti.